Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà per una nuova puntata di Overbooking in compagnia di un nuovo libro. Io sono Alvise, un ringraziamento doveroso allo staff, alla redazione di questo programma, a partire da Matteo Polo, Daniele Terzarioli in regia, Elisa Veronese alle voci. Il libro di questa sera è Una fatica letteraria a firma di Paolo Nori, esce per Ediciclo Editore nel 2010 e si intitola A Bologna le bici erano come i cani. Il libro della serata fa parte di una collana interessantissima curata da Ediciclo e che si chiama Ciclopolis. Ciclopolis è una collana in cui diversi autori si occupano di descrivere delle realtà non solo in termini di città, ma anche proprio in termini di punto di vista diverso, delle città o dei luoghi, partendo dal punto di vista preferenziale di una passeggiata, di una scampagnata in bicicletta. La prospettiva sia spaziale che temporale cambia di conseguenza. Abbiamo questa opera di Paolo Nori, appunto A Bologna le bici erano come i cani, ma nella stessa collana troviamo due altri lavori, uno su Firenze a firma di Paola Zanoner, Firenze in quattro stagioni, e poi Max Mauro, La bici sopra Berlino, che ci parla appunto di Berlino. Ringraziamo, prima di entrare un po' nello specifico di quello che è il contenuto di A Bologna le bici erano come i cani, ringraziamo Lorenza Stroppa di Ediciclo per averci aiutato a costruire questa puntata e per voler collaborare con noi, perché questo aiuto è sempre ben accetto. Allora, Paolo Nori è uno scrittore italiano nato a Parma ma vive a Bologna, quindi un po' scrive della sua città, e infatti c'è molto di autobiografico in questo romanzo. È uno scrittore assolutamente prolifico, perché pubblica in anni anche recenti, pubblica a partire all'incirca dal 2000 una ventina tra romanzi, racconti e anche saggi. Io vi consiglio, perché detta sinceramente è l'unica cosa che ho letto, Gli scarti, edito da Feltrinelli 2003, che a me è piaciuto moltissimo, ma più di recente un notevole successo è stato poi raggiunto da Mi compro una gilera, sempre per Feltrinelli, nel 2008. Paolo Nori è anche un esperto traduttore dal russo, e si è occupato della traduzione di diverse opere, appunto, dal russo all'italiano. E questa cosa, anche questo, ritorna poi in A Bologna le bici erano come i cani. Questo libro esce appunto per Ediciclo Editore nel 2010, trova un notevole successo di critica, abbiamo una serie di testate giornalistiche che ne parlano benissimo, tra cui mi piace segnalare questo commento tratto dal giornale: Paolo Nori, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. E con questo grande ricordo della pubblicità della Panda, andiamo a fare una prima pausa musicale e poi andiamo a parlare un po' di quello che è il contenuto del libro di questa sera. Questi sono i 102.2 di Radio Sandonà, e questo è un Leonard Cohen dannata, Bird on a Wire. On the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out. My 102.2 Radio Sandonà, questa era Bird on a Wire, un pezzo, secondo me, sì, accettate un'opinione personale, tra i più belli di Leonard Cohen, e ci serve per ritornare a parlare di A Bologna le bici erano come i cani di Paolo Nori. Allora, abbiamo detto Paolo Nori, scrittore molto, molto prolifico, Paolo Nori, traduttore dal russo, Paolo Nori, amante e vivente a Bologna. Allora, il protagonista di questo romanzo, Bernardo, ha molto in comune con Paolo Nori. Anche lui vive a Bologna, anche lui ha l'età di Paolo Nori, ossia ha 47 anni, dopodiché anche lui si occupa di qualcosa che è attinente alla scrittura, lui fa presentazioni, come ha modo di dire alla figlia, e anche lui traduce dal, traduce dal russo. Il libro, diciamo, si dipana attorno a due figure principali. Una è proprio la figura di Bernardo, che un po' alla volta ci introduce alla sua vita, al rapporto che ha con la figlia, al rapporto che ha con il lavoro. L'altra è la figura di Benito, un diciamo compagno di un vicino di casa di Bernardo, vivono nello stesso edificio. Benito ha un passato travagliato e Benito riparava biciclette. E qui c'è un collegamento importante per quello che è un po' il filo conduttore di A Bologna le bici erano come i cani. Benito riparava biciclette, ora è un pensionato ancora brillante, guida ancora la macchina, ma ha un volto un po' triste, ha una qualche tristezza insita che disvelerà mano a mano che si procede con il romanzo tramite un espediente, ossia Benito presenta l'idea a Bernardo di comporre un romanzo. Prima di andare a vedere in che modo Benito cerca di portare a termine quest'opera e quali retroscena della vita di Benito emergono nel momento in cui cercherà di realizzare questo romanzo, andiamo a leggere con l'aiuto di Elisa Veronese l'incipit di A Bologna gli bici erano come i cani. Non so perché i giapponesi mi odiano, mi aveva detto. Era la prima volta che mi parlava. Era un signore al quale avrei dato 80 anni. Beh, ne aveva 79, avrei scoperto dopo. Con delle mani grosse, con delle dita enormi, che sembrava che avessero ancora tutta la loro forza. Delle dita che a guardarle veniva da pensare che dovevano aver sofferto molto di essere andati in pensione. Era evidente che quel signore, a parte l'età, era in pensione. Aveva un bisogno di parlare con gli altri che hanno solo i pensionati o le persone molto estroverse. O quelle molto disturbate, avevo pensato. La cosa più impressionante erano le dita. Sembravano sporche, di quello sporco che non viene mai via, neanche con la pasta che hanno i meccanici per lavare le mani. Era uno sporco di morchia che si era depositato da anni. Ma non era quello che faceva impressione, era il dispiacere. Sembrava di sentire il dispiacere delle dita per non essere più impegnate tutto il giorno a girare dei cacciaviti o delle chiavi a tubo e dover invece voltare dei fogli di giornale o prendere delle tazzine di caffè o portare delle borse della spesa o prendere in mano ogni tanto un volante. Guidava ancora Benito, si chiamava Benito. Era già quasi maggio e avevo fretta. Come sempre, era un periodo che mi era venuta la fretta tipica di quei periodi in cui sai che devi fare qualcosa e non vuoi fare niente. Avevo appena cominciato un romanzo, anzi, non che avessi cominciato, avevo vagheggiato l'inizio di un romanzo sulle Brigate Rosse. Mi sembrava di aver raccolto tutto il materiale, ero pronto per scriverlo, ma poi Per non dover cominciare davvero, accettavo tutti gli inviti che mi facevano, così mi sembrava di lavorare e di tenere a bada il senso di colpa. Venivo quel giorno dal meridione, dove ero stato a fare una lettura, una di quelle con rimborso spese. Dovevo andare quel giorno in una città termale a fare un'altra lettura, una di quelle senza rimborso spese, e 3 giorni dopo a Prato a tenere un discorso sul Risorgimento. E non avevo la più pallida idea di cosa avrei potuto dire, e dovevo anche fare una doccia e cambiarmi la camicia e telefonare alla battaglia e farmi un caffè e guardare il gatto se aveva tutto: acqua, crocchette, sabbia nella sua bacinella, e fargli 2 carezze, io e lui da soli. E poi di corsa in bicicletta in stazione. E quando ero entrato dal portone del condominio, avevo trovato l'ingresso minuscolo, quasi completamente ostruito dalle spalle grandi di questo signore, spalle coperte da un panno scuro, panno di un cappotto tipo Loden e di un colore che andava di moda qualche decennio prima e che si chiamava fumo di Londra. Nel sentire che qualcuno era entrato, quel signore si era voltato verso l'ingresso, tenendo aperta con una mano la sua cassetta delle lettere. Mi aveva visto e, senza dirmi né buongiorno né buonasera, mi aveva detto quella cosa lì. Non so perché i giapponesi mi odiano. Non gli ho fatto niente. Forse gli ricordo qualcuno che, non lo so, gli ha fatto del male. E allora, aveva detto, anche senza volerlo, non so come dire, come loro lo sanno, come non sono io quello che gli ha fatto del male, però poi lì dentro, dove si muove, come si chiama, il sentimento, e che anche i giapponesi, anche se non si capisce niente di quello che dicono, magari hanno dei sentimenti anche loro, che non devono essere neanche diversi dai nostri, sono diversi dell'altro, diversa l'educazione. Che lì, ah, povera Italia, una volta, quando è stato, 1 mese fa, tutto questo l'aveva detto senza guardarmi negli occhi, con lo sguardo rivolto per aria, alla parte superiore del portone del condominio, là, in alto, quella parte di vetro tra la fine del portone vero e proprio e la struttura in cemento, quella parte che forse, da quando il condominio era stato costruito, l'avevano toccata in 2 o in 3, ultimo il ragazzo 20enne, che veniva una volta ogni 15 giorni a pulire le scale. No, forse neanche lui. Poi quel signore fumo di Londra aveva abbassato lo sguardo alla mia fronte e aveva detto: «Mi scusi, io la sto disturbando?» «No», avevo detto io, «no». Uno di quei no, che si dicono in fretta, di botto, che vengono giù senza ordini, da soli. Uno di quei no, che si dicono a volte con quelle che uno si immagina potrebbero diventare le sue fidanzate. In the oldest oak tree by the neighboring factory, the forever rising steel beams rim the twilight. In the overpass view with the traffic lights hanging by threads like ornaments, so did you have your last train? Did you raise it up to me? Just despite me not being there with you. Drunk, fucked up like the twilight. Drunk, fucked up like drunk, like the twilight out tonight. 'Cause when the ball closes down, does murder to the city. Dirty and peaceful and mean. For the record, I'd stand right here on the corner, waiting for justice to bring you here to me. Drunk, fucked up like the twilight. Drunk, fucked up like drunk, like the twilight out tonight. Ryan Adams, Drunk and Fucked Up sui 102.2 di Radio San Donà. Stiamo parlando questa sera di A Bologna le bici erano come i cani di Paolo Nori, edito nel 2010 da Ediciclo Editore. Prima di continuare a parlare un po' di quello che è il contenuto di questo brillante e molto anche sarcastico e anche divertente romanzo, vi ricordo che tutte le puntate, quindi anche questa, di Overbooking sono scaricabili o ascoltabili nel nostro blog www.bloverbooking.wordpress.com. Tra l'altro, vi ricordo anche che tutto quello che ruota attorno all'universo di Overbooking, quindi non solo le puntate ma anche delle recensioni che di cui ci occupiamo in collaborazione con Scuola Holden di Torino, possono essere reperite sia su www.bloverbooking.wordpress.com sia anche sul sito di Radio Sandona www.radiosandona.it. Potete sempre raggiungerci in redazione chiamando lo 0421 560993 o mandando un fax allo 0421 560994, alternativamente la mail è radio@radiosandona.it. Allora, abbiamo detto, il protagonista del romanzo, Bernardo, ha una figlia dal nome peculiare La Battaglia e conosce Benito. Benito è un ex meccanico di biciclette che ha lavorato in Africa. Oggi, al momento in cui Bernardo lo conosce, è un pensionato a cui è costato molto smettere di lavorare. è un pensionato che ha un futuro, ha un passato un po' travagliato. Ad un certo punto, come dicevo, Benito vorrà far emergere questo passato e vorrà farlo scrivendo un romanzo. Ovviamente non ha assolutamente idea di usare una di quelle strumentazioni classiche per lo scrivere, come una macchina da scrivere o un computer, ma decide di registrare delle audiocassette che usa per raccogliere le idee e raccogliere i propri pensieri attorno alla sua vita. Quindi, praticamente, nel corso del romanzo, Benito realizzerà tre cassette che fa avere a Bernardo in modo da poter poi realizzare questo romanzo finale. Ci sono vari particolari di cui Benito si occupa, all'interno delle sue registrazioni. Alcuni un po' più, diciamo, divertenti. Mi viene ad esempio in mente un pezzo che poi sentiremo come estratto in un secondo momento, in un momento in cui Benito racconta di aver accompagnato un suo coetaneo che poi vuol provarci con una procace sessantenne al cinema, dove lui era il terzo incomodo, ma guidando ancora doveva comunque traghettare tutti verso appunto il cinema. Altre cose sono più introspettive. Ad esempio, c'è una parte in cui Benito diciamo rievoca la figura della moglie e la vita della moglie, però defunta. Queste audiocassette sono, e il romanzo in sé, sono poi invece indirizzati ad un figlio con il quale Benito ha ormai perso i rapporti. Nello sfondo di questa, diciamo, vicenda umana c'è Bologna. Bologna con le sue biciclette. E le biciclette sono un tema ricorrente. Perché? Perché Bernardo non se ne separa, perché Benito le riparava, e quindi trovano, diciamo che sono il personaggio in più, il personaggio in più del romanzo, a parte gli umani in qualche modo. E quindi, come secondo estratto, andiamo proprio a leggerci una parte che ci racconta di come sono le biciclette a Bologna. Quella sera, a quella presentazione, presentavo il romanzo di una mia amica, che era un romanzo i cui protagonisti erano due tossicodipendenti, e tra le altre cose avevamo parlato di quando in Italia, sul finire degli anni 70, era cominciata quella cosa lì, della diffusione di massa della tossicodipendenza, e di come all'improvviso la gente aveva cominciato a chiudere a chiave le macchine, i motorini e le biciclette. E io mi ero ricordato che molti anni prima avevo visto un servizio in televisione sulle biciclette a New York, dove venivano riprese i lucchetti che giravano intorno alle ruote e alle canne delle biciclette. E a me erano sembrati dei lucchetti grandissimi, sproporzionati. E avevo pensato, ma poveretti questi americani. Da noi allora le biciclette praticamente non si chiudevano. C'erano dei lucchettini che venivano compresi nella bicicletta con delle chiavettine che tu li tiravi giù e sentivi clic e poi tiravi fuori la chiave, ed era una specie di fermaraggi. Ma era una cosa che era un po' da fanatici. La maggior parte dei miei amici la bici la lasciavano così, aperta. E io mi ero ricordato di un libro sull'Uzara, il paese di Zavattini, dove il meccanico diceva che negli anni 50, all'Uzara, le bici non le chiudeva nessuno, perché le bici del paese le conoscevano tutti. Una bici era come una faccia, si diceva. Invece adesso, io per esempio, di lucchetti per chiudere la bici ne avevo due, uno per la ruota davanti, uno per la ruota di dietro, e uno dei due era fatto in un modo che non si poteva tranciare col tronchesino. Le avevo comprate il giorno che avevo comprato la bici, il giorno dopo che mi avevano rubato quella che avevo prima, sotto casa della Battaglia, che abitava vicino allo stadio. Una sera che allo stadio c'era un concerto di Vasco Rossi, ed era quella volta lì, ogni volta che ascolto Vasco Rossi, mi viene in mente la mia bicicletta. Ruben Gonzales sui 102.2 di Radio Sandonà. Io vi consiglio caldamente l'ultimo lavoro di Ruben Gonzales intitolato Canciullo, spero di pronunciarlo correttamente. Ruben Gonzales faceva parte in passato e credo faccia tuttora parte dei Buena Vista Social Club e fa questa musica che a me sinceramente riempie d'allegria. Torniamo adesso invece a parlare un po' di a Bologna le bici erano come i cani. Ne abbiamo letto, grazie alla preziosissima Elisa Veronese, due estratti e andiamo un po' a tirare le fila dell'analisi di questo romanzo. A noi è piaciuto particolarmente perché è un romanzo ironico ma contemporaneamente abbastanza introspettivo. Ci ha fatto un po' pensare a Spaesamento di Giorgio Vasta, di cui ci siamo già occupati nella scorsa edizione di questo programma, perché anche lì abbiamo la contrapposizione tra quella che è la descrizione di un paesaggio, che nel caso di Vasta era Palermo, nel caso di Nori è Bologna, e una parte invece più di, diciamo, autoanalisi in qualche modo e di analisi del vissuto lì del personaggio Vasta, qui dei due personaggi Bernardo e Benito. Vi aggiungo poi che la storia di Benito in sé è ricca di colpi di scena che ovviamente non vi anticipiamo qui, ma che rendono il romanzo assolutamente brillante. L'ultimo colpo di scena finale sinceramente ci ha lasciati un po' di amaro in bocca. Avremmo preferito un'altra fine, però ci sentiamo di consigliare caldamente il romanzo. Un'ulteriore nota, ci è molto piaciuto il fatto che Nori sceglie scrivere il romanzo utilizzando delle soluzioni, anche ad esempio tramite la punteggiatura, che fanno risaltare in maniera molto molto ficcante il fatto che stanno emergendo i pensieri in qualche modo più intimi dei due protagonisti del romanzo stesso, sia Bernardo e Benito. Quindi il pensiero in sé non è molto articolato, è un po' farraginoso, eccetera eccetera, e la punteggiatura segue questo, diciamo, turbinio di idee e di pensieri che emergono nella testa, per cui abbiamo una punteggiatura non regolare che magari può un po' spiazzare in qualche caso, però dà secondo noi un'idea molto immediata di quello che è appunto il pensiero e i pensieri dei due protagonisti. Infatti l'ultimo estratto, con cui anche vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana, sempre in compagnia di Overbooking, al martedì sera e poi in replica la domenica, è una parte in cui Benito racconta un po' i suoi ricordi legati alla moglie. La moglie purtroppo deceduta. Detto questo, io vi saluto, come dicevo vi rimando alla prossima settimana e vi lascio con un pezzo finale che è Learning di Parfum Genius. Perché no, non lo so, ma questa è una cosa, a parte che non ho mica paura, ma questa è una cosa che dopo spiegarla è un po' difficoltosa. Che il fatto è che io fino a un certo momento avevo una testa che lì, non so come dire, lì non sei tu che comandi, lì dopo è il mondo che ti insegna le cose, che quando sei giovani hai un bel dire, vedrai, non c'è niente da fare, il mondo è così e te ne accorgi che è tardi, e quando poi l'hai capito è già tutto finito, che lì quello è un mistero. Per esempio, la gente che ce l'ha con te, anche se non gli hai fatto niente, che ti odiano proprio, come con me i giapponesi. Che gli avessi fatto qualcosa capirei, va bene, io vi ho fatto qualcosa, voi ce l'avete con me, tutto quadra. Se uno ha un motivo per odiarti, dopo può essere anche una cosa spiacevole, ma tu almeno un motivo che ti odiano ce l'hai. Dopo puoi dire che sono matti, che sono invidiosi, che hanno capito male, puoi dire quello che vuoi, oppure li odi anche te, che allora è la situazione ideale, lì non si sbaglia, lì sono tutti contenti, te mi odi, io ti odio, va bene, siamo d'accordo. Là pensiamo nello stesso modo, solo che io con i giapponesi, ma anche con Giannasi, a pensarci non era mica così. Che Giannasi a me non mi odiava, ma io l'ho odiato per un certo periodo. Sì, io un po' lo odiavo, Giannasi, per un certo periodo. E avevo anche ragione. Anche se adesso è morto, poveretto. Che vita che ha fatto anche lui. Essere peso così e non accorgersene, guarda che non è mica bello. Che dopo, anche a te che l'hai odiato, ti viene da chiederti che cosa l'hai odiato a fare, poveretto? Non ce l'aveva mica con te? Era solo peso, come il tuono, Giannasi. E anche i marziani, che lì stai buono. Le cose che ho dovuto patire io dai marziani, i parenti della Germana che stavano a Milano, ci andavamo tutti gli anni sotto Natale. Che quello lì era un lavoro. Io sarei stato a casa così volentieri, ma la Germana su molte cose lasciava perdere. Sulla cosa lì della visita a Milano non c'era verso. Un colonnello in 28 anni non c'era stato verso di saltare una visita a Milano. Take off that dress.